Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Primo appuntamento della settimana con l'Adico, anche con gli amici dell'Associazione Difesa Consumatori. Abbiamo fatto vacanza la settimana scorsa, proprio di vacanze non proprio allegre. Parliamo con Gianluca Codognato. Ben trovato Gianluca. Un saluto a te Mirko e ai radioascoltatori. Allora, abbiamo parlato spesso con l'Adico purtroppo di disavventure legate alle vacanze e in particolare ai bagagli che sono un peso, ovviamente sono anche un costo se si dovesse superare la misura prevista dalle compagnie. Qui addirittura parliamo del triplo. Cos'è successo? Allora Mirko, sì, noi di solito parliamo di bagagli smarriti, no? In questo caso non parliamo di questo, anche se chiaramente abbiamo segnalazioni di ogni tipo in questo periodo di vacanza e ormai alla conclusione, e quindi abbiamo moltissimi casi anche di problematiche con i bagagli. Qua è una problematica con i bagagli, però riguarda una informazione sbagliata che ha reso la vita difficile a una cittadina egiziana che in realtà risiede a Venezia e che doveva partire appunto con le sue due figlie per tornare al Cairo, tra parentesi doveva stare un lungo periodo fino a settembre da maggio, perché doveva anche rinnovare i passaporti di tutti e tre, quindi il suo passaporto e quello delle due figlie, quindi insomma aveva una certa urgenza di tornare al Cairo. E anche immagino una certa quantità di bagagli. E aveva una certa quantità di bagagli perché appunto tornava sostanzialmente a casa per più di qualche mese. Succede appunto che alcuni bagagli poteva farli mettere dentro l'aereo, altri invece doveva portarli a mano. Dei bagagli grandi ne erano tre in più, uno a testa, e insomma informandoci tramite l'agenzia nella quale avevano prenotato per partire, hanno chiesto appunto il costo del bagaglio. Questa agenzia, diciamo con un piccolo giro di telefonate anche tramite vari tour operator, e ha rilevato che insomma doveva essere 55 euro a valigia. Quindi tranquillamente questa signora assieme alle figlie si è presentata in aeroporto convinta appunto di dover pagare 55 euro a valigia, invece il costo era di 158 euro a valigia, e quindi moltiplicato ovviamente per tre bagagli fa 474 euro. Oggettivamente in quell'occasione la cittadina egiziana quei soldi non ce li aveva, e insomma alla fin fine ha perso l'aereo perché non ha potuto pagare. Nel frattempo concitato hanno anche chiamato l'agenzia ha cercato di parlare con l'addetta al check-in, ma non c'è stato niente da fare, e insomma alla fin fine Mirko questa signora è ancora in Italia con le sue due figlie, e insomma credo che il disagio sia stato notevole. Certo, perché comunque il costo del biglietto credo sia andato perduto, perché quello sicuramente l'aveva pagato. Allora Mirko fortunatamente interveniamo noi, nel senso che tramite il nostro ufficio legale appunto la signora si è rivolta all'Adico, ed è qua insomma che siamo intervenuti tempestivamente. Abbiamo contestato la situazione all'agenzia. L'agenzia ha ammesso il proprio errore, lo ha ammesso addirittura per iscritto, anche spiegando come è avvenuto, e in buona sostanza siamo molto orgogliosi del risultato. Tra l'assicurazione e la stessa agenzia di viaggio praticamente la signora riceverà indietro sia tutti i soldi del biglietto e anche delle spese superiori insomma per i vari disagi vissuti. Sicché una volta che verrà è stata riconosciuta questo rimborso, questi soldi sono stati riconosciuti, e adesso la cittadina egiziana aspetterà che vengano concretamente elargiti e poi potrà finalmente tornarsene al Cairo sapendo quanto deve pagare effettivamente. Sapendo esattamente quanto gli costerà le valigie, e probabilmente anche riducendole le stesse, visto che insomma non si paga poco per ogni bagaglio extra. Perché poi c'è appunto, lei ha comunque il problema della scadenza del passaporto, quindi su questa cosa ovviamente non si può scherzare, altrimenti diventa clandestina. Appunto, lei e le figlie. Siamo soddisfatti appunto anche del risultato, proprio perché non era un'urgenza per andare a prendere il sole, ma è un'urgenza per rifarsi il passaporto. Allora questo è un problema fortunatamente risolto. La chiave sta tutta appunto nell'errata informazione, spieghiamo bene questo aspetto. È stata un'errata informazione da parte dell'addetta all'agenzia, la quale è giusto dire che poi ha fatto anche di tutto per sistemare la situazione. e comunque per iscritto ha ammesso il proprio errore, pur sottolineando che comunque l'errore è derivato da un'informazione sbagliata di un tour operator che aveva contattato a Torino. Quindi insomma è stato un giro, diciamo, di informazioni sbagliate. Quindi ecco, noi non vogliamo assolutamente colpevolizzare poi la detta dell'agenzia, anche perché devo dire che l'agenzia stessa si è comportata in modo molto corretto, riconoscendo l'errore e riconoscendo anche tutto l'importo del biglietto. Quindi dobbiamo essere onesti, in questo caso l'agenzia si è comportata molto bene, magari tutte le controparti fossero così celeri a riconoscere i propri errori. Beh, questa forma appunto di piena collaborazione è anche, credo, frutto di tanti anni di presenza sul territorio dell'Adico e anche dello sportello Vacanza Informata, che credo, correggimi se sbaglio Gianluca, sia uno dei più frequentati e dei più richiesti tra i vostri servizi. È tra i più richiesti, soprattutto nel periodo estivo, quando veramente è subissato di richieste d'aiuto, però assolutamente è uno dei più utilizzati dai nostri soci. Allora, buona vacanza anche ancora, qualche giorno da spendere, speriamo non abbia questo tipo di problemi. In ogni caso c'è l'Adico, Associazione Difesa Consumatori.it, con Gianluca. Allora ci ritroviamo fra qualche giorno per parlare di un altro mantra dell'Adico, che sono le bollette. Grazie Gianluca, alla prossima. Grazie a te Mirko. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.